Cirrostrati. Quali pallidi luminari voi portano? Dove andando guidate la contemplazione di menti svagate o estatiche, trasognate, trasecolanti? Quali messi messaggi trascinate? Sì, le estasi, le estasi e le estatiche estati sono le vostre monadi sorelle, e ciò che raggia, ciò che passa, ne dico, di cui non ho rivelazione, è la contemplazione che non passa, la muta, intransigente filiazione. Era lo stato da mano bassa della non materiale materia e tutto ciò che squassa la stasi, la mentale miseria. La vocazione era lo stato da mano bassa della non materiale materia e tutto ciò che squassa la stasi, la mentale miseria. Stato da man bassa della non materiale materia e tutto ciò che squassa la stasi, la mentale miseria.